ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Questa era vita intellettuale, Martin pensò, ed era bellezza, calda, splendida, come non aveva mai sognato potesse esistere. Dimenticò se stesso e la fissò con occhi avidi. Ecco, qualcosa per la quale vivere, vincere, lottare, e sì, per la quale morire. I libri dicevano la verità. Nel mondo esistono donne simili. Ruth era una di loro, donava ali alla sua immaginazione. Grandi, luminose tele si svolgevano davanti ai suoi occhi, tele sulle quali apparivano vaghe, gigantesche immagini di amore e avventura e di eroiche azioni compiute per la salvezza di una donna pallida, un fiore d'oro. Attraverso questa ondeggiante, palpitante visione, come attraverso un miraggio fatato, lui fissava la donna reale, quella che sedeva lì, parlandogli di letteratura ed arte. La ascoltava davvero, senza mai smettere di fissarla, ignaro dell'immobilità del suo sguardo o del fatto che tutta la virilità della sua natura brillasse ora nei suoi occhi. Ma lei, pur conoscendo poco il mondo degli uomini, poiché era una donna, era acutamente consapevole del suo sguardo bruciante. Nessun uomo l'aveva mai guardata in quel modo e lei era imbarazzata, si confuse, non riuscì più a continuare, il filo del discorso le scivolò via, lui le faceva paura e nello stesso tempo era stranamente piacevole essere guardato così. L'educazione ricevuta la mise subito in guardia contro il pericolo che la minacciava e contro quella sbagliata, inafferrabile, misteriosa attrazione. Ma il richiamo dell'istinto risuonava con voce acuta per tutto il suo essere, incitandola a superare caste e luoghi e ricchezze per raggiungere il viaggiatore proveniente da un altro mondo. Quel giovane rozzo, con le mani ferite e con un segno rosso sul collo lasciatogli da un colletto inamidato al quale non era abituato. Quel giovane che, senza alcun dubbio, era stato macchiato e contaminato da un'esistenza dissoluta. Ruth era pura, e la sua purezza si rivoltò, ma era una donna, e aveva appena iniziato a conoscere il paradosso dell'essere donna. Come stavo dicendo? Oh, ma cosa stavo dicendo? Si interruppe bruscamente, e rise con allegria del suo stesso imbarazzo. Stava dicendo che quest'uomo, Swinburne, non è riuscito ad essere un grande poeta perché... E questo è dove era arrivata, signorina, le suggerì lui, sentendosi improvvisamente affamato, mentre piacevoli, piccoli brividi gli correvano su e giù per la schiena al suono della sua risata. Come argento, pensò, come campanelle d'argento che tintinnano. E in quell'istante, e per un istante, fu trasportato in una terra lontana, dove all'ombra di un ciliegio ricoperto di fiori rosa, fumava una sigaretta, ascoltando le campane di una pagoda dal tetto a punta richiamare alla preghiera devoti dai sandali di paglia. Ah, sì, grazie, disse lei. Swinburne, in conclusione, non è un grande poeta perché è, ebbene, è indelicato. Molte delle sue poesie non si dovrebbero leggere. Ogni verso scritto da un vero e grande poeta è pervaso dalla bellezza, dalla verità e si appella a tutto ciò che vi è di alto e di nobile nella natura umana. Il mondo diverrebbe più povero se anche uno solo dei versi dei grandi poeti andasse perduto. Pensavo che era grande, disse Martin, esitante, da quel poco che ho letto. Non avevo idea che era che non era un tipo per bene. Forse questo salta fuori negli altri libri. vi sono molti versi che non si dovrebbero leggere anche in quel libro, disse lei in tono affettato e intransigente. Ah, mi devono essere sfuggiti, dichiarò lui. Quello che ho letto era davvero buono. Era tutta luce e scintille. E mi hanno proprio colpito, mi hanno illuminato come il sole o un riflettore. È così che me lo sono sentito calare addosso, ma forse non sono molto ferrato in poesia, signorina. Si interruppe incerto, era confuso, dolorosamente conscio della sua incapacità di esprimersi. In ciò che aveva letto aveva sentito la grandezza e il calore della vita, ma non aveva saputo trovare le parole adeguate. Non riusciva ad esprimere quello che sentiva e, nella sua mente, si paragonò a un marinaio che in una notte buia brancola tra sartie che non gli sono familiari su una nave sconosciuta. Bene, decise. Spettava a lui fare la conoscenza di questo nuovo mondo. Ancora incontrato nulla che non potesse capire, se solo lo voleva. Adesso era giunto il momento di imparare e parlare delle cose che erano dentro di lui in modo che lei potesse comprenderle. Lei occupava un posto sempre più importante nel suo orizzonte. Invece Longfellow, lei stava dicendo. Sì, l'ho letto! La interruppe impulsivamente, sentendosi spinto a esibirsi per ottenere il massimo dalla sua piccola riserva di libri letti e per dimostrarle che non era uno stupido ignorantone. Il salmo della vita, Excelsior, credo che non c'è altro. Lei annuì e sorrise, e lui in qualche modo avvertì che era un sorriso indulgente, pietosamente indulgente. Era stato un pazzo a pensare di poter fingere in quel modo. Probabilmente quel tipo, Longfellow, aveva scritto innumerevoli libri di poesia. Mi scusi, signorina, che l'ho interrotta in questo modo. Forse la verità è che io non so molto di queste cose. Non sono il mio genere, ma lo diventeranno. La frase risuonò come una minaccia, la voce era decisa, c'erano lampi negli occhi, i tratti della faccia si erano induriti. E a lei sembrò che l'angolo della mascella fosse cambiato, che fosse diventato sgradevolmente aggressivo. Nello stesso tempo, un'onda di intensa virilità sembrò scaturire da lui per riversarsi su di lei. Penso proprio che lei riuscirebbe a farle diventare il suo genere, concluse ridendo. Lei è molto forte. Lo sguardo di Ruth si fermò per un momento sul collo muscoloso con i forti tendini, simili a quello di un toro abbronzato dal sole che sprigionava forza e una salute vigorosa. Martin le sedeva di fronte, umile e imbarazzato, eppure lei se ne sentiva di nuovo attratta, fu turbata da un pensiero lascivo che le attraversò la mente. Pensò che se avesse potuto appoggiare le mani su quel collo, tutta la forza e il vigore di quell'uomo si sarebbero riversati in lei. Quel pensiero scandalizzò Ruth. Le sembrò rivelare una perversione che lei non aveva mai nemmeno sognata potesse esistere nella sua natura. E poi per lei la forza era sempre stata qualcosa di volgare, brutale. Il suo ideale di bellezza maschile era una figura sottile, raffinata. Eppure quel pensiero persisteva. Quel desiderio di posare le mani su quel collo abbronzato la sconvolgeva. In realtà Ruth era tutt'altro che robusta. Il suo corpo e la sua mente avevano bisogno di vigore. Ma lei non lo sapeva, sapeva solo che prima di allora nessun uomo l'aveva colpita come questo, che ad ogni momento la sconcertava con i suoi terribili errori di grammatica. Sì, non sono un invalido, disse, e quando si arriva al fondo della pentola posso digerire anche il ferro, ma adesso soffro di dispepsia, non posso digerire un bel po' di quello che diceva, mai studiato queste cose, lei capisce, mi piacciono i libri, la poesia e tutto il tempo che ho la passo a leggere, ma non ho mai pensato ai libri, come ci pensa lei, ecco perché non posso parlare come un marinaio alla deriva senza le carte e il compasso in un mare che non conosce, ora però io voglio prendere la mia posizione, forse lei può darmi una dritta. Come hai imparato tutte quelle cose che diceva prima? Andando a scuola, immagino. Studiando, rispose lei. Ma anch'io andavo a scuola da ragazzino, obiettò lui. Sì, ma io parlavo di scuole secondarie, di conferenze, di università. Ah, lei è andata all'università? Le chiese sinceramente stupefatto. La sentì più lontana di almeno un milione di miglia. La sto frequentando, seguo dei corsi di inglese. Non sapeva che cosa significasse inglese, ma ne prese mentalmente nota e continuò. Quanto tempo dovrei studiare prima che io posso andare all'università? Le chiese. Lei volle incoraggiare il suo desiderio di cultura e gli rispose: dipende da quali studi ha già fatto. Ha frequentato le scuole secondarie? Chiaramente no. Ma ha finito le primarie? Ho lasciato che mi mancavano 2 anni, rispose lui. Ma sono sempre stato promosso con dei bei voti. Immediatamente Martin si arrabbiò con se stesso per la sua banteria e strinse i braccioli della poltrona così violentemente da farsi bruciare la punta delle dita. Nello stesso momento si rese conto che una donna stava entrando nella sala. Vide la ragazza alzarsi e attraversare agile e veloce la stanza per raggiungere la nuova arrivata. Si baciarono e, tenendosi l'un l'altra con un braccio intorno alla vita, camminarono verso di lui. Quella deve essere sua madre, pensò. Era una donna alta, bionda, snella e maestosa e bella. Vestiva esattamente come si aspettava che vestissero in quella casa e provò piacere nel guardare l'elegante vestito che lei indossava. Quella donna e il suo abbigliamento gli ricordavano le attrici sui palcoscenici. Poi si ricordò di essersi spesso fermato a guardare dame e abiti ugualmente maestosi entrare nei teatri di Londra mentre i poliziotti cercavano di spingerlo indietro, fuori dal tendone, sotto una pioggia leggera. Subito dopo, la sua mente saltò al Grand Hotel di Yokohama. Anche là si era fermato sul marciapiede per guardare delle dame maestose. Poi gli balenarono davanti agli occhi migliaia di immagini della città e del porto di Yokohama, ma si liberò velocemente del caleidoscopio della memoria, oppresso dalle incombenti necessità del presente. Sapeva di doversi alzare per essere presentato e lottò dolorosamente per riuscirvi. Poi rimase in piedi, con i pantaloni che formavano delle borse all'altezza delle ginocchia, le braccia che pendevano abbandonate e ridicole, i tratti del viso induriti in attesa della prova imminente. Martin entrare nella sala da pranzo fu un incubo. Tra soste e inciampi, scarti e rollii, in certi momenti gli sembrava impossibile muoversi, ma alla fine vi riuscì e si ritrovò seduto al fianco di lei. Lo schieramento di coltelli e forchette lo spaventava, le posate brillavano di ignoti pericoli e lui le fissava, affascinato, finché il loro bagliore divenne lo sfondo sul quale scorreva una serie di immagini di castelli di prua dove lui e i suoi compagni sedevano mangiando carne salata con i coltelli a serramanico e con le dita o svuotavano gavette piene di una densa zuppa di piselli con cucchiai di ferro tutto ammaccato. Aveva nelle narici la puzza della carne andata male mentre nelle orecchie gli riecheggiava il rumore delle bocche che masticavano accompagnato dallo scricchiolio del legname e dai lamenti del sartiame. Li osservò e decise che mangiavano come maiali. Bene, adesso sarebbe stato attento. Non avrebbe fatto nessun rumore. Vi avrebbe fatto continuamente attenzione. Si diede un'occhiata intorno. Di fronte a lui sedevano Arthur e il fratello di Arthur, Norman. Erano i fratelli di lei, si disse, mentre il suo cuore si riempiva di tenerezza. Si amavano davvero in quella famiglia. Gli ritornò in mente l'immagine della madre di lei, il bacio di benvenuto e le due donne che abbracciate camminavano verso di lui. Nel suo mondo non esistevano simili manifestazioni di affetto tra genitori e figli. Erano una rivelazione delle vette dell'esistenza raggiunte in quel mondo superiore, e nella sua breve incursione in quel mondo, l'affetto era la cosa più bella che vi avesse visto fino a quel momento. Lo aveva colpito fin dal profondo, facendo distruggere il cuore di tenerezza. Aveva avuto fame d'amore per tutta la vita. La sua natura bramava l'amore. Era una necessità organica del suo essere. Eppure aveva dovuto farne a meno, e per questo si era indurito. Non aveva mai saputo di aver bisogno di amore, e non lo sapeva neppure ora. Semplicemente, vedendone gli effetti, aveva provato un fremito e aveva pensato che l'amore era bello e nobile e splendido. Era contento che il signor Morse non ci fosse. Era già abbastanza difficile conoscere lei e sua madre e suo fratello Norman. Arthur, in qualche modo, lo conosceva già. Era sicuro che sarebbe stato troppo dover incontrare anche il padre. Gli sembrava di non aver mai lavorato così duramente in tutta la sua vita. Paragonato a quella cena, anche il lavoro più duro gli appariva un gioco da bambini. La fronte era bagnata da piccole gocce di sudore e anche la camicia ne era intrisa per lo sforzo di fare nello stesso tempo tante cose diverse alle quali non era abituato. Doveva mangiare come non aveva mai mangiato prima, doveva maneggiare strani utensili, doveva guardarsi furtivamente intorno per imparare azioni che non conosceva. Doveva anche recepire, registrare e classificare nella sua mente le impressioni che si riversavano su di lui come una marea. Inoltre era consapevole di desiderare Ruth, e quel desiderio lo infastidiva sotto forma di una sorda e dolorosa irrequietezza. Sentiva anche lo sprone del pungolo dell'ambizione che lo incitava a conquistare i sentieri della vita dove lei camminava, e infine doveva sopportare che la sua mente si perdesse in speculazioni e in vaghi piani su come giungere fino a lei. Ogni volta che Martin guardava furtivamente Norman seduto di fronte a lui o uno degli altri commensali per accertarsi quale coltello o forchetta bisognasse usare, la sua mente si concentrava sui tratti di quella persona, sforzandosi di analizzarli e di divinarne il significato. E faceva tutto ciò per lei. Poi doveva parlare, ascoltare ciò che gli veniva detto e ciò che gli altri si dicevano tra loro. E quando era necessario, doveva rispondere controllandosi continuamente per impedirsi di parlare senza riflettere, come era sua abitudine. E per aggiungere ulteriore imbarazzo all'imbarazzo che già provava, c'era il cameriere, una continua minaccia che appariva alle sue spalle senza far rumore. Una spaventosa sfinge che proponeva enigmi e misteri, richiedendone subito la soluzione. Per tutta la cena fu oppresso dal pensiero delle vaschette lavadite. Insistentemente e nei momenti più disparati e incongruenti gli capitava di chiedersi quando sarebbero arrivate e che aspetto avrebbero avuto. Ne aveva sentito parlare e ora pensava, prima o poi, in un istante qualsiasi dei prossimi minuti, le avrebbe viste, perché era seduto a tavola con creature eccelse che usavano le coppette lavadita. E sì, anche lui, proprio lui, le avrebbe usate. Ma più importante di tutto, in profondità, eppure sempre alla superficie dei suoi pensieri, Martin si chiedeva come comportarsi con queste persone. Che atteggiamento avrebbe dovuto avere? Lottò ansiosamente per tutta la sera con questo interrogativo. Pensava pavidamente che avrebbe dovuto ingannarli, recitare una parte, e poi ancora più pavidamente pensava che non ci sarebbe mai riuscito, che la sua natura non sarebbe stata in grado di reggere una simile recita e che avrebbe fatto la figura dello stupido. Parte della cena, Martin, intento a decidere come comportarsi, fu molto tranquillo. Non sapeva che la sua calma smentiva Arthur, il quale il giorno prima aveva annunciato ai familiari che avrebbe portato un selvaggio a casa per cena. ma di non preoccuparsi perché l'avrebbero trovato un selvaggio interessante. Martin Eden in quel momento non avrebbe mai potuto credere che il fratello di Ruth potesse essersi comportato così slealmente, soprattutto quando era stato lui a salvarlo da una sgradevole rissa. E così se ne stava seduto a tavola, turbato dalla propria inadeguatezza e contemporaneamente affascinato da tutto ciò che accadeva intorno a lui. Per la prima volta in vita sua capì che mangiare poteva essere qualcosa di più che una necessità, anche se non si rendeva conto di ciò che mangiava. Era soltanto cibo. A quella tavola stava festeggiando il suo amore per la bellezza. Lì dove mangiare era una funzione estetica ed era anche una funzione intellettuale. La sua mente ne fu eccitata. Martin ascoltava parole che non avevano alcun significato per lui e altre parole che aveva letto solo nei libri e che nessun uomo o donna da lui conosciuti aveva mai avuto un calibro mentale sufficientemente ampio per pronunciare. Ogni volta che le sentiva scivolare con noncuranza dalle labbra di uno dei membri di quella meravigliosa famiglia, la famiglia di lei, Martin fremeva di gioia. La passione, la bellezza e la nobile forza dei libri stavano diventando reali. Era in quella rara e felice condizione nella quale un uomo vede i suoi sogni avventurarsi fuori dai recessi della fantasia per diventare realtà. Mai era stato a simili altezze e cercava di restare sullo sfondo, ascoltando, osservando e gioendo e rispondendo con monosillabi reticenti. Sì signorina e no signorina, a lei e sì signora e no signora, a sua madre. Frenò l'impulso di rispondere sì signore e no signore ai suoi fratelli, come si faceva sulle navi. Sentiva che non sarebbe stato appropriato, che sarebbe stata una confessione di inferiorità da parte sua. Non andava bene se voleva conquistarla, e inoltre glielo impediva il suo orgoglio. Per Dio! Esclamò una volta tra sé e sé. Io valgo quanto loro, e se loro sanno un sacco di cose che io non so, anche io potrei imparargliene qualcuna lo stesso. E subito dopo, quando lei o sua madre gli rivolgevano chiamandolo signor Eden, dimenticava il suo orgoglio e la sua aggressività, mentre una calda felicità lo illuminava. Era una persona civile. Ecco che cos'era. A cena, a fianco con persone delle quali aveva letto nei libri. Oh, e adesso anche lui era nei libri e si avventurava attraverso le pagine stampate di volumi rilegati. Martin, mentre smentiva la discrezione di Arthur, mostrandosi un dolce agnellino e non un selvaggio, si scervellava alla ricerca di un piano d'azione. Non era un dolce agnellino e la sua natura, prepotentemente dominante, non avrebbe mai potuto accettare un ruolo di secondo piano. Ma quella sera parlava solo quando era interrogato e allora le sue frasi erano come la camminata verso il tavolo, piene di soste, inciampi, mentre lui era intento a rovistare tra le parole del suo vocabolario poliglotta, a soppesare quelle parole che gli sembravano adatte, ma che temeva di non saper pronunciare, scartandone altre che non sarebbero state capite o che erano crude e sgradevoli. Ma era sempre oppresso dalla consapevolezza che quella cautela nel parlare lo faceva sembrare uno stupido e gli impediva di esprimere ciò che aveva dentro. Il suo amore per la libertà era irritato da queste restrizioni, così come il suo collo lo era dal colletto inabitato. Sapeva che non sarebbe riuscito a controllarsi a lungo. Era dotato per natura di un pensiero e di una sensibilità prolifici, di uno spirito creativo ribelle, imperioso. E infatti Martin fu facilmente vinto da quel concetto, da quella sensazione che dentro di lui si stava contorcendo in preda ai dolori del parto per ottenere espressione e forma. E allora, dimenticandosi di se stesso e di dove fosse, lasciò che le vecchie parole, gli utensili per parlare che davvero conosceva, gli sfuggissero dalla bocca. Fu così che a un certo punto rifiutò qualcosa, dicendo bruscamente «Puah!» al cameriere che lo interrompeva e lo infastidiva alle spalle. Istantaneamente tutti quelli seduti a tavola lo fissarono attenti e speranzosi. Il cameriere ne fu malevolmente compiaciuto e lui si sentì atrocemente mortificato. Ma si riprese subito È lingua kanaka e sta per finito, spiegò. Esce proprio senza fatica. È scritta P-U-A-H. Pua. Si accorse che gli occhi curiosi e indagatori di Ruth stavano fissando le sue mani e, sentendosi dell'umore giusto per dare spiegazioni, disse ancora: ho giusto sceso la costa del Pacifico su un vapore delle poste. Era indietro sulla tabella di marcia e nei porti di Puget Sound abbiamo dovuto lavorare come negri per stivare il carico. Carico misto, se lei sa che cosa vuol dire. Per questo io ho le mani scorticate. Non si tratta di questo, lei si affrettò a spiegare a sua volta. Soltanto le sue mani sembrano troppo piccole per il suo corpo. Martin si sentì diventare le guance bollenti e gli sembrò che quel commento rivelasse un altro dei suoi difetti. Si scusò, non sono abbastanza grandi per reggere il colpo. Colpisco come un mulo con le braccia e le spalle. Sono troppo forti e ogni volta che spacco la faccia a qualcuno mi si spaccano anche le mani. Non era contento di quello che aveva detto. Era disgustato di se stesso. Aveva abbassato la guardia e aveva parlato di cose sgradevoli. È stato coraggioso ad aiutare Arthur. E lei non lo conosceva neppure, disse Ruth, piena di tatto, consapevole del suo imbarazzo, pur ignorandone il motivo. E lui a sua volta comprese quello che lei aveva fatto e, sommerso da un'ondata di gratitudine, parlò di nuovo senza riflettere. Non ho fatto niente, disse, l'avrebbe fatto chiunque. Quei teppisti andavano in cerca di guai e Arthur non gli aveva mica dato fastidio. Gli si sono buttati sopra, allora io mi sono buttato sopra di loro e ne ho fatti fuori un po'. È così che mi sono sbucciato le mani, ma quelli della banda ci hanno lasciato un po' di denti. Non me lo sarei mai perso. Io quando vedo... Si bloccò, la bocca aperta, sull'orlo dell'abisso della sua depravazione, sentendosi indegno di respirare la stessa aria che respirava lei. E mentre Arthur iniziava a raccontare per la 20ª volta la sua avventura con dei teppisti ubriachi sul ferry boat e di come Martin Eden fosse accorso e l'avesse salvato, lui, con la fronte corrugata, ripensava quanto si fosse reso ridicolo e si scervellava per decidere una volta per tutte come comportarsi con i suoi ospiti. Certo, finora non aveva avuto successo, non era della loro tribù. Non poteva parlare il loro gergo, si disse per consolarsi. Non poteva far finta di essere come loro. La mascherata sarebbe stata scoperta. E peraltro le mascherate erano estranee alla sua natura. E lui non c'era posto per finzioni e artifici. Doveva essere se stesso, qualsiasi cosa accadesse. Non era ancora capace di parlare il linguaggio dei suoi ospiti, ma con il tempo forse vi sarebbe riuscito. Non aveva dubbi. Intanto, però, doveva parlare e doveva farlo nel suo linguaggio, mitigato, ovviamente, quanto era necessario per farsi capire e per non turbarli troppo. Non avrebbe più preteso di conoscere qualcosa che in realtà gli era sconosciuta, neppure per tacito assenso. E così, quando i due fratelli usarono più volte il termine Trig, parlando dell'università, Martin Eden, fedele alla sua decisione, domandò: «Cosa vuol dire Trig?» «Trigonometria», disse Norman, «un livello più complesso di mat». «E cosa vuol dire mat?» fu la domanda successiva, che per qualche motivo fece ridere gli altri alle spalle di Norman. «Matematica, aritmetica», fu la risposta. Martin Eden annuì. Aveva potuto dare una piccola occhiata al panorama, in apparenza sconfinato, della conoscenza. E ciò che aveva visto divenne tangibile. Il suo abnorme potere di visione faceva diventare concrete le astrazioni. Nell'alchimia del suo cervello la trigonometria e la matematica e l'intero campo della conoscenza che esse lasciavano intuire furono trasformati in una serie di paesaggi. E i paesaggi che vedeva erano il fogliame verde e le radure di una foresta, pervase da una luce tenue oppure colpite da raggi di luce. In lontananza i particolari erano confusi e velati da un alone viola, ma oltre l'alone viola, lui lo sapeva, c'era il fascino dell'ignoto, il richiamo della passione. Era come bere del vino. Questa era avventura, qualcosa da fare con la testa e le mani, un mondo da conquistare.